I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Dreams are my reality, a different kind of reality. I dream of loving in the night, and loving seems alright, although it's only fantasy. Cazza. Prova microfono. Ah, eccoci, ci siamo. Buonasera a tutte le persone in ascolto di Radio Wombat. Riconoscete questa musica? If you do exist, honey, don't resist. Show me a new way of loving. Tell me that it's true. Show me what to do. I feel something special about you. Dreams are my reality. Siamo tornate su Radio Wombat con Il tempo delle pere. Dopo tanto tempo, un po' di tempo, ricomincia. Possiamo chiamarla seconda stagione? Possiamo chiamarla continuazione della prima? Non lo so, abbiamo un ospite stasera che ci può aiutare a rispondere a queste domande e tante altre. Sì, la mia risposta è sì e sarà di nuovo sì. Possiamo chiamarla la seconda stagione, cara Cecilia. La seconda stagione del tempo delle pere per voi su Radio Wombat in questa domenica pomeriggio. Voi ascoltate in edizione, ma sa che adesso da registrare di domenica pomeriggio. Allora, mentre la nostra meravigliosa sigla del tempo delle pere, della quale mi prendo tutte le responsabilità e le soddisfazioni, buon diritto, dico. Mentre sfuma, siamo qui su Radio Wombat. Un saluto a chi ci sta ascoltando, chi ci sta ascoltando in diretta dal palinsesto Wombato, chi in podcast in un secondo momento. In ogni caso, buonasera a tutte. Buonasera anche a lei, caro ospite. Abbiamo un ospite nuovo, speciale, che non è mai stato qui in regia Radio Wombat. Buonasera, cara conduttrice, sono molto emozionato. Vorrei aggiungere i miei saluti anche a chi non ci sta ascoltando. A chi non ci sta ascoltando. Perché no? Giusto. Si vuole presentare o lo presento io, caro ospite? Abbiamo qui Franco Spagnole. Stasera Franco Spagnole. Franco Spagnole. Le? Plurale. Perché plurale? No? Certo. Perché no? Buonasera Franco. È un piacere averla qui con lei al tempo delle pere. Bene, ecco, a prescindere dai convenevoli, ora la musica così ha avuto, sembra un momento di... ci siamo, no? Ok, ci siamo. Ci strasiamo, ecco, basta con i convenevoli, siamo sull'1, 3, 5, 9, grazie Franco, nonostante tu non sia mai stato qui, conosci meglio di me sui numeri queste cose. Radio Wombat, diretta dalle AM, diretta dalla regia, registrazione dalla regia, poco importa, l'importante è essere sul Wombato. Quindi, come... potete sapere se avete sentito qualche volta qualche altra puntata del Tempo delle Pere. Se non l'avete fatto, sappiate che sul sito di Radio Wombat ci sono pubblicate tutte le puntate come podcast, quindi ci sono poche scuse di non averli ascoltato. Sul Tempo delle Pere, che cos'è? Una trasmissione che parla di relazioni, parla di non monogamia etiche, parla di tante altre cose nel frattempo. E questa volta, per iniziare a bomba la seconda stagione, abbiamo detto: perché non fare quello che sappiamo fare meglio al Tempo delle Pere, ossia complicarci la vita e parlare di cosucce in una domenica pomeriggio alle 10:30. E quindi di cosa parleremo, Franco? Vuoi dirlo tu? Lo dico io? Io ti sono scudiero, cara Gegè, ti sono gregario, sarò il tuo barichello per tutta la puntata. Hai detto tre parole in tre secondi che non conosco. Soprattutto non barichello, sono sicuro. Pilota della Ferrari. Quando c'era Schumacher. Di cosa si parla quindi stasera? Si parlerà di un concetto così banale, insomma, poco affrontato nella storia dell'umanità: la libertà. Perché? Perché appunto le cose le prendiamo anche molto molto dalla larga e la lontana, e quindi da un lato non penso che debba offendere l'intelligenza di chi ci ascolta e spiegare qual è la relazione del mondo, quali sono le relazioni, scusate la ridondanza, tra la libertà e il mondo delle relazioni, tra il concetto di libertà e anche tutta l'indagine sulla monogamia, non la monogamia, le non monogamie etiche. Di nuovo, vedi prima stagione per riferimenti. No, infatti è un argomento facilino abbiamo scelto. Sì, infatti non ci è voluto poco, insomma, facile arrivarci. Soltanto l'argomento speculativo, non so se principale della storia, si percepisce nel modo in cui stiamo continuando a non entrare nella questione. Ma comunque, abbiamo un sacco di musichette adorabili. Abbiamo un sacco di musica e sicuramente la musica ci aiuterà. Anzi, l'idea è un po' quella: farci guidare attraverso tutta una serie di canzoni e di pezzi in questo discorso, in questo ragionamento sulla libertà. Anche perché sappiatelo, di nuovo, non penso che devo offendere la vostra intelligenza dicendolo, sottolineandolo, non abbiamo le risposte a nulla, non avremo le risposte, non avrete risposte, ecco, sappiatelo. Avrete forse compagnia sicuramente, buona musica spero, ma risposte veramente poche. But you can't hear the rain. E quindi partiamo con la prima canzone che ci dà un po' il là, ci fa partire tutta una serie di spunti. Vuoi presentarla, Franco? Non so quale canzone hai scelto, sono molto curioso. Ah, beh, in no, effetti dici, non la presentiamo, andiamo e basta. No. Sì, andiamo e basta, va bene. Voglio essere libero. Libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura. Che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale. Incosciente come un uomo, compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è parte partecipazione. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti del cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Sembrava onesto lasciare l'applauso, che dici? Accidenti, accidenti, mi piace sempre. Penso che era meritato. Bella, bella la scelta della canzone live, bella, brava. Sì, scelta. Sì, sì, sì, certo, molto bene. Grazie. Allora, diciamo che questa canzone, forse un po' banalmente, però è stata un po' la cosa che mi ha dato il là nel proporre a Franco qui presente l'argomento della nostra chiacchierata di stasera. E più che altro perché, insomma, questa canzone nella sua bellezza, urlato, una menata così, vabbè, nella sua bellezza, nella sua semplicità, proprio come tante canzoni di Gabber, mi ha sempre lasciato un po' quel retrogusto di chiamerei insoddisfazione facendo sbagliando, più diciamo apertura a un dialogo, ecco, perché questa libertà e partecipazione, insomma, mi ha sempre lasciato un po' basita. Tu che pensi? Ma di per sé o perché in relazione ai tratti negativi che dici prima? No, è proprio un... No, devo smettere di urlare nel mio... Scusate, pardon. Passiamo sì, facciamo sì, così. Esatto. Chiedo perdona per... è la prima puntata della seconda stagione, ragazzi, cioè non faccio questa cosa un po', insomma, sicuramente mi perdonerete per questi urla nelle casse. Fatto. Tu grazie. No, mi è sempre lasciato un po' basita, cioè nel senso di... non ho capito. Cosa mi stai dicendo, Giorgio? Cioè che libertà e partecipazione forse è condivisibile di per sé. Quello che fa strano in questa canzone è il fatto che prima dica che la libertà non è il volo di un moscone o stare sopra un albero. La libertà non è uno spazio libero. È come sì, perché no, anche proprio la partecipazione, tu dici, è scontato di per sé. Perché? No, dico, forse è giusto di per sé. Effettivamente io me la immagino la libertà come partecipazione, soprattutto se come Gabber può stare in contrapposizione con l'uomo che delega, con l'uomo che, come dici, ha trovato, certo, nel farsi comandare la propria nuova libertà. Forse è un po' meno generale di quanto si vuole, cioè si deve circoscrivere, sì, un po'. Secondo me è molto politico questo, soprattutto poi fatto da Gabber, ora ha un significato ulteriore comunque. Vabbè, e sì, è più circoscritta a una libertà politica, la sua intendere libertà come partecipazione. Però non lo so, a me piace forse vederla come un libertà come partecipazione, nel senso di essere partecipi. Cioè, finché non si è partecipi di un'azione, di una situazione, di se stessi, non si può essere, cioè come fa a essere libero riguardo a qualcosa di cui non si partecipa. Che stiamo dicendo un po' due cose che erano quelle che accennavamo anche prima, chiacchierando prima di iniziare la puntata, forse libertà individuale, libertà collettivo. Quindi il tema della libertà come partecipazione introduce già la libertà collettiva. Sì, per rendere partecipe anche le persone all'ascolto, in preparazione della incredibile avventura nella discussione di stasera. Ovviamente una delle cose, delle direzioni della discussione che si è deciso di intraprendere è questa cosa, no, della differenza fra libertà individuale e libertà collettiva, che un po' forse è il nodo della questione, se vogliamo lanciarci direttamente nella questione un po' più spinosa, cioè dov'è il confine fra la libertà individuale e la libertà collettiva, cioè che forse è un po' il vero problema nel momento in cui si ragiona di libertà e nella sua applicazione è questo il vero dramma, no? Cioè che nella teorizzazione puoi dire tante cose, però poi nell'applicazione il problema c'è quando libertà individuale e libertà collettiva non coincidono. Siamo molto abituati magari alla frase che la mia libertà finisce dove inizia la tua, però ma che significa? Facciamo fatica a rappresentarla nel reale di volta in volta, in effetti. Non lo so, sicuramente l'attenzione alla libertà altrui è presupposto per la libertà tua, forse. Noi stiamo entrando già nel merito con delle domande. Facciamo domande, lanciamo domande e poi non dobbiamo per forza rispondere adesso. Possiamo anche lanciare tutte le domande nella prima mezz'ora. E poi nella seconda noi diamo delle risposte. Così, però le risposte sono tipo 3,5. Poi voi dovete capire. Lisbona, cos'è? Esatto. No, ovviamente non verranno date queste risposte, però sì, le domande sono un po' tipo. Sono queste, cioè le domande che cercheremo un po' di affrontare. Qual è il confine fra libertà collettiva e libertà individuale, qual è la differenza fra libertà positiva e libertà negativa, quindi libertà di o libertà da, e quali sono le domande che ti poni quando ragioni di libertà, e insomma tutte così. Ma prima di tutto questo tu magari avevi pensato forse anche di fare un'introduzione in generale sulla storia del concetto di libertà affrontato a livello filosofico, esame. Guarda, ora c'ho gli appunti dell'esame di filosofia. Secondo me infatti è proprio il momento giusto quello di mettere una canzone, ripassare gli appuntini, sì, e tornare freschissimi. Come si fa prima dell'esame? Guarda, c'è Giovanni che sta facendo l'interrogazione. Ora mi vado a ripetere un attimo questa cosa. Comunque sì, le domande sono queste e le direzioni sono tante. E tipo adesso l'altra direzione è scegliere la seconda canzone. Ne abbiamo molte, l'avevamo detto prima. Però io non ho nessuna autonomia, essendo tu ai comandi. No, quindi puoi suggerire una preferenza comunque. Ma le mie preferite non ti sono piaciute. Allora scegliamo le tue preferite e vanno benissimo lo stesso. No, io andrei su una generale. Voliamo su delle vette, sì, no, transatlantiche, andiamo da Pearl Jam in America e mettiamo Learn to Fly, che dici? Vogliamo letteralmente, sì. Letteralmente. Could've told me, told me, but he told me now. restless motherfuckers, we still stand. Torniamo sulla traccia, letteralmente back on track. E quindi questa canzone dei Pearl Jam l'abbiamo messa perché, a parte essere molto bella secondo me, e ce la suggeriva il nostro caro Franco. E il testo parla di cosa parla, Franco, che ci suggerivi questa canzone? Devi considerare che io in realtà non l'ho mai ascoltata fino alla fine. Vabbè, ora l'abbiamo ascoltata tutte insieme. A un certo punto mi sono distratto, però fino a un certo momento parla di lui che va su questa scogliera con i suoi pensieri in testa, fuma una sigaretta, più o meno le sue braccia diventano delle ali, inizia a volare via lontano e poi chissà che cosa capita. Un sogno di libertà, insomma. Speriamo positiva alla fine anche sia di questo sogno. Lo indagheremo con la prossima canzone. Beh, secondo me forse il volo, anche quello del moscone, nonostante Gabber non sia d'accordo, è vola, diciamo, vola, vola, no. Alla fine vola libero sul mare, molto vola bene, libero molto sul bene. Mare, appunto, dicevo, cioè il volo forse è una delle cose che più archetipicamente noi come poveri esseri umani, sì, che non possiamo farlo, associamo alla libertà. Ci piace anche il volo del calabrone, infatti, il famoso volo del calabrone, che secondo tutte gli studi di ingegneria, già, non potrebbe volare. La sua volare. Capacità, sì, bravo calabrone, sei tutti bravo. Noi. Quello nostrale, però. Je suis calabrone. Me too. E quindi Franco mi chiedeva un riassunto così in due minuti, anche tipo Bignami, della storia della libertà. Ovviamente questa cosa non la posso fare, però vabbè, diciamo, per dare una contestualizzazione un minimo storica, secondo me, cioè, mi verrebbe da dire che sicuramente questa importanza, no, crucialità, questo ruolo così determinante nella vita, nei discorsi, nei ragionamenti della libertà è un po' caratterizzante della nostra società, noi occidentali bianchi, figli della cultura europea / americana, insomma, e del positivismo tendenzialmente, quindi dell'epoca moderna in poi. Ci sono stati dei tempi e delle società e delle impostazioni di pensiero diverse da quella che viviamo adesso noi in Italia, Europa, America, Occidente, eccetera, che non avevano tutta questa enfasi sulla libertà. Certo, è sempre stata un'indagine quella della libertà, però era contestualizzata all'interno di un modo di vedere la vita e l'individuo, eccetera, molto diverso. E che, appunto, rispetto al discorso di libertà individuale e libertà collettiva, ovviamente queste due hanno pesi diversi a seconda che la concezione della società e della persona sia sbilanciata sull'individuo o sulla dalla collettività o in tutto quello che c'è in mezzo. Quindi ad esempio una società come quella greca, soprattutto rispetto ovviamente a quanto ci rimandano le fonti della società greca arcaica, quindi presocratica eccetera, se vedi anche i discorsi filosofici eccetera, rimandano a una concezione della natura all'interno del quale l'uomo è inserito e non contrapposto, dove vige un ordine, comunque un ordine superiore, un ordine deterministico in qualche modo molto più presente e quindi molto meno sbilanciato su questa famosa libertà, ovviamente sicuramente anche sulla libertà individuale, cioè anche la libertà individuale è sempre in funzione di questo ordine superiore, di un ordine superiore di giustizia, di equilibrio, di anche il rapporto con la divinità e con la sua direzione, la sua necessarietà, cioè nel senso se arriva il Dio che ti dice fai questo tu lo fai, cioè nel senso discorsi sulla libertà contano anche il giusto, perché comunque c'è questa visione dell'individuo come talmente interconnesso e appunto subordinato alle leggi della natura, della società, di Dio, di tutto, insomma dell'equilibrio delle cose, per cui la libertà individuale, libero arbitrio eccetera vengono un po' meno. Pensavo che è curioso magari pensare, notare come forse ai primordi della nostra civiltà, insomma quella che hai descritto, diciamo mediterranea, atlantica, europea, ci sia questo pensiero, mentre oggi in realtà si forma un pensiero precisamente opposto rispetto alla libertà collettiva. La libertà imperante, quella che ci immaginiamo come libertà, è la libertà individuale. Sì, forse, ma in realtà tu devi pensare che non è così, cioè nel senso la nostra società sì sicuramente ha origine in quella greca eccetera, però a livello di filoni, il filone della modernità, della rivoluzione scientifica cartesiana eccetera eccetera è uno dei filoni, cioè dall'altro lato ce n'è uno completamente, se vogliamo, opposto, che è quello ad esempio della morale cattolica, della chiesa cattolica cristiana, apostolica, evangelica e non mi ricordo, che è proprio l'opposto, cioè ha una visione dove cioè, è predeterministica, ovviamente c'è la provvidenza divina, la tua libertà ce ne frega il giusto, cioè nel senso che comunque siamo impregnati totalmente nella nostra cultura di questa roba, quindi c'è questa, anzi questa la privazione dualità della libertà è proprio un valore in effetti. Esatto, è il sacrificio, sì, è in visione di una libertà futura, che anche quella non è libertà come la intendiamo noi, perché il paradiso è libertà come perfezione. Quindi... Ma e quindi che diresti, che oggi siamo un po' spinti fra due impulsi differenti, la libertà individuale e quella collettiva al tempo stesso, chissà quante altre. Io direi altre che forse parlando dall'Italia, possiamo dire che Radio Wombat è in Italia, non possiamo dire niente. E non siamo nemmeno sicurissimi. Siamo in Italia, forse siamo in Italia. Siamo stati in Italia. È opinabile. In alcuni momenti di questo. Comunque parlando dall'Italia, perché siamo italiane, noi che stiamo parlando, e basta questa parentesi. C'è questo dialismo, secondo me, particolarmente, come devo dire, pesante sul nostro groppone, cioè nel senso che abbiamo il Papa in casa e quindi la morale cattolica ce la puppiamo volente o nolente, e quindi questa, insomma, sicuramente per quanto l'influenza della cultura nordamericana, anche quella ce la portiamo sul groppone come un grosso peso, non è comunque la nostra cultura d'origine, cioè non abbiamo diciamo tutto questo focus sull'individuo, sulla libertà individuale eccetera come lì, quindi cioè, io direi sì, poi non si può decontestualizzare geograficamente il discorso, secondo me. Sono d'accordo. E poi, non lo so, penso anche, prima parlavi di positivismo, l'idea positiva della storia, un progresso benefico necessariamente. Sì, sì, appunto, dicevo, quindi questa cosa cioè non è strano, nonostante, cioè quello che dicevi del vabbè, noi veniamo dai greci, strano che loro avevano questa visione così distante. No, perché sì, per quanto noi veniamo dai greci, però appunto questa roba qua che abbiamo noi adesso è figlia della modernità più che figlia dei legami che ci portiamo ancora dalla tradizione greca, perché appunto la modernità è stato il momento in cui l'umanesimo, l'uomo al centro di tutto, la scienza eccetera, quel concetto di libertà è stato un concetto proprio da un lato anche secondo me molto legato al potere e libertà come potenza, cioè proprio potenza di poter fare, quindi la libertà positiva, cioè nel senso di agire sulla realtà più che di non subire qualcosa. No, penso infatti magari anche il romanticismo stesso ha riportato in auge un'idea individualista insieme a filosofi come Nietzsche. Mi vengono in mente Marx, che hanno affermato nuovi concetti, idee, punti di vista attorno alla libertà, che sicuramente l'hanno fatta molto più complessa, al punto tale che oggi stentiamo forse sempre a definirla. Sì, è che da quel punto in poi proprio il discorso sulla libertà, su cos'è, che vuol dire essere liberi, ma chi è libero, eccetera eccetera, è diventata proprio centrale sempre, cioè che sia rispetto a un discorso di vederla appunto come libertà da oppressione, come fa Marx, quindi come contrapposizione appunto, dialettica tra libertà e oppressione, o libertà come fondamento della vita aggregata, come dice Locke, quindi dice ok, le cose fondamentali senza cui l'uomo non va da nessuna parte, non esiste neanche in quanto uomo, sono la vita, la libertà, e poi ci aggiunge la proprietà privata, grazie Locke, senza te non facevamo nulla, però insomma, quindi cioè comunque che presa da un angolo o l'altro, la libertà e su che cos'è rimane assolutamente centrale, quasi un'ossessione nella nostra, cioè dalla modernità in poi. Pensavo anche a tutte le aggettivazioni delle libertà possibili che uno potrebbe dare, ma forse lo vogliamo fare dopo una canzone, non lo so se... Sì, sì, infatti sì, stavo un attimo... Ho visto infatti che spippolavi e quindi stavo me lo tengo per dopo questo commento. Stavo un attimo qua guardando la lista delle canzoni, pensando a cosa... su quale direzione dare al resto della discussione. Lo metto nel mio tascapane questo commento. Quale commento? Non lo ricordo, devo prenderlo dalla mia tascapane. Comunque, libertà, secondo me potremmo anche ragionare, abbiamo detto un po' la contestualizzazione, quindi la differenza fra quanto è importante la libertà adesso nella nostra storia postmoderna rispetto a quanto lo era nelle società dove era tutto un po' più appunto deterministico rispetto al fato, eccetera. Però c'era anche un altro discorso che... Che era l'aggettivazione, secondo me, della libertà? Perché io pensavo a questa cosa. Ah sì, la libertà, sì, stavo pensando... Scusa, intanto mi scordo quello che dico mentre lo dico. Io sono qui per questo. Grazie, gentilissimo. Questo è il motivo per cui non posso fare trasmissioni da sola. Libertà come assenza di costrizioni, che è un po'... Forse che rimanda alla differenza fra libertà negativa e libertà positiva. Secondo me, e questa è un'altra cosa che dicevamo in preparazione della puntata, che forse è più difficile definire la libertà positiva, cioè libertà di fare qualcosa, quando è che c'è la libertà negativa, cioè la libertà, di non subire, sì, da, diciamo, libertà è un po' più, tra virgolette, semplice, cioè libertà come assenza di costrizioni, di non subire qualcosa, forse è un po' più generale, punto di domanda, non sappiamo. Forse un po' più accettata, forse sì, a livello comune, umano, voglio dire. La libertà da, voglio dire, è più riconosciuta universalmente. E infatti a questo proposito ci faceva piacere leggere così, randomicamente, perché comunque non vi pensate che qua abbiamo delle scalette precise, l'improvvisazione impera sempre al tempo delle pere, e quindi così improvvisando ci andava di leggere una poesia di Trilussa che un po' parlava di questo, sì, che è un po' legata anche alla canzone che abbiamo messo prima, perché va bene l'improvvisazione ma comunque le cose le facciamo con un minimo di senso, perché... Sono sicuro che è anche legata alla canzone che metterai subito dopo, per sicuramente l'altro. Quindi io che sono romano, col mio perfetto accento romano, vi leggo. Io lo so fare romano. Lo vuoi tu? Lo vuoi leggere tu? Sì, sono lontano. Ah, dal vaso di copia. Avviciniamo tutto. Mi raccomando, c'è aspettativa. Allora, ci dice Trilussa. Grande Trilussa. Grande Trilussa. La canzone, secondo me. La poesia si chiama... La vuoi la base sotto oggi? Cioè? Abbassa un pochino. Va bene. Poi si rialza. Allora, questi sono i dietro le quinte del mestiere radiofonico. Alza, bassa, il mixer, così. Quindi la canzone si chiama Er Grillo Zoppo e recita così.

la libertà, cioè le cose autoimposte, le oppressioni acquisite nei confronti di noi stessi, portate avanti in questo modo, sono quelle un po' più difficili da cui liberarsi. Quindi la liberazione personale è quella un po' più, cioè, è meno evidente, no? Forse, quindi è più difficile da raggiungere. E invece dall'altra parte Califano, che parla di questa libertà in modo forse un po' più leggero, adolescenziale, quindi la libertà come assenza di limitazioni, che secondo me è un po' quel tipo di assenza di limitazioni che viene confusa con la mancanza di responsabilità, no? E quindi, se vogliamo fare tutto un giro di boa per ritornare alle relazioni monogame e non monogame, etiche eccetera, Califano rappresenta un po' quel stereotipo di persona per cui la libertà significa non avere responsabilità nei confronti degli altri. Quindi nel momento in cui non ho legami, non ho responsabilità, quindi sono libero di fare quello che voglio. Forse il commento più profondo che si è beccato Califano attorno a questa canzone nella sua storia. In realtà lui stava là di io sei libero, bere anche. No, io voglio attacco le donne alla finestra. Non mi rompete il cazzo. No, che poi pensavo, la prima canzone, in effetti quella di Dalla, dov'è la liberazione alla fine? Infatti nella morte, cioè al punto tale che è soltanto con la morte che arriva questa liberazione, questo momento di ricongiungimento con Maria, questa donna che se ne sta di là dal... impossibile, quindi, che sia, sì, la, esatto, cella fisica, la cella... Un po' pessimista, cioè questa visione che effettivamente questa famosa libertà è una cosa che noi nella nostra vita umana forse non possiamo raggiungere, per quanto ci proviamo, rimane una signora lontana. Se l'utopia di Galeano, quella poesia famosa, l'utopia verso cui camminiamo, una tendenza a cui andiamo. Che ci fa muovere comunque in ogni caso. Rumori ambientali. No, pensavo... Cosa pensavi, Franco? Pensavo agli aggettivi, cioè che forse davvero dire libertà non basta mai. Cioè, soprattutto oggi, certo, bisogna sempre aggettivare, definire, capire da quale punto di vista la stiamo prendendo, aggiungere una preposizione, come facevamo prima, libertà di, libertà da. Libertà positiva, negativa, collettiva, individuale, certo. Certo, ma anche magari, oltre a quelli che abbiamo detto, anche un tipo di libertà, oltre che le dicotomie, che ne so, libertà morale, politica, libertà religiosa, economica, sessuale, eccetera, artistica, sono tutti tipi di libertà possibili. E la domanda da $1 million è: qual è il minimo comune denominatore? A cui forse non risponderemo c'è oggi. Io faccio queste domande così. Forse, ecco, questo forse è un momento in cui mi dispiace non essere in diretta. Sarebbe stato bello avere il pad dei commenti delle persone per capire, no, le risposte, quali sono le vostre concezioni. Comunque scrivete, fatelo lo stesso, ecco, se vi va, se state ascoltando in questo momento Radio Wombat e vi va di aprire il pad diretta. Com'è? Diretta wombat.vado.li. Comunque c'è il link del pad sotto il pulsantone della diretta sul sito e qualcuno leggerà. Io sicuramente leggerò, mi collegherò sul pad quando questa trasmissione andrà effettivamente in diretta. Quindi se state ascoltando in diretta e scrivete, si può fare questa cosa anche in momenti diversi. Anche su postawombat@insiberia.net. Leggiamo anche lì se ci scrivete. Comunque ricordiamo che Franco non è mai stato in radio. C'è scritto lì, c'è un cartello, c'è... è tutto facile, no? Lo servi. Vuoi sapere le password del computer? C'è scritto lì. Non si dico. E quindi, Franco, tu che ne pensi di questa cosa della libertà come assenza di responsabilità? Secondo me è un po' pure quel discorso di prima, cioè mi dicevi una cosa che secondo me ci starebbe di condividere anche con le persone che stanno ascoltando, cioè quella tua idea che dicevi che la libertà individuale non può essere mai davvero scissa dalla libertà collettiva, cioè una influenza l'altro. Secondo me è un po' questo discorso qua, cioè di vedere sempre la propria libertà in funzione anche proprio delle responsabilità che si hanno nei confronti delle altre persone. Però non solo la vorrei proporre come un senso di castrazione, di privazione, ma come un senso, cioè con l'idea di massimizzazione anche della libertà individuale, cioè azzardo così, pur parli fra noi, no? Che magari la libertà individuale e la libertà collettiva sono direttamente proporzionali, nel senso che crescono assieme o diminuiscono assieme. Forse per la semplice ragione per cui in realtà una libertà individuale si afferma davvero, comunque si può sviluppare nel momento in cui è confrontata in relazione con altre libertà, con altre persone libere, con discorsi e pensieri che liberamente si affermano e si scontrano, raffrontano. E quindi un califano che dice io prendo, com'è che dice la frase, considero solo... trattare con i guanti solo questa mia libertà, un po' come dire me ne frega di niente tranne che della mia libertà. Sì, è che secondo me obiettivamente è un misogino bastardo, certo. E il fatto che dicesse prima anche la donna più pulita prima o poi le corna te la fa, tanto vale andare avanti e trattare con i guanti solo questa libertà, secondo me ci hai letto fin troppo, forse il califano. Ma no, io ci leggo la persona, non dico che lui voleva intendere questo, però immaginando il tipo di persona appunto misogino bastardo comunque, che secondo me è un pezzaccio, intendiamoci, è un maledetto, ma mi è piaciuta anche a me la canzone, no? Per prenderlo come spunto di ragionamento, infatti, cioè, non gli diamo più credito di quello che non abbia, per quanto la canzone anche a me piace sia carina. Però sì, cioè, nel senso, Califano, insomma, un po' hai sbagliato nel fatto di pensare che trattare con i guanti solo questa tua libertà sia effettivamente portarlo al rispetto, perché evidentemente non lo è, cioè nella tua concezione. Tu, Califano, sto parlando con te, mi ascolti sicuramente. Sì, sì. Ascoltando Radio Wombat, te lo dico come consiglio: trattare con i guanti solo la propria libertà, non in funzione della libertà anche delle altre persone, in realtà è uno sbaglio o semplicemente un beh, forse è limitante, falso. In effetti. Limitante, esatto. Cioè, pensavo quello, no? Nel senso, da un certo momento, che ne so, dall'850 circa in poi, forse si è iniziato a pensare anche alla libertà in un... Allora, forse la libertà in un momento, penso a, non lo so, al materialismo, alla filosofia marxista e a come la libertà economica, politica, sociale da metà 800 in poi sia stata proposta come preliminare rispetto all'affermazione anche di altre libertà, e quindi la possibilità materiale di arrivare a delle cose siano dei... sì, delle opportunità, sì, certo, esatto, le sì. opportunità materiali del reale che poi ti danno quella e allo stesso la possibilità tempo di essere libero o meno, che non ti fanno problematizzare attorno a quelli e che ti danno quella possibilità di speculare, ragionare e agire. Ah, beh, certo, questo è un po', cioè, da un lato nient'altro che il discorso della caverna di Platone, cioè nel senso, finché la libertà è subordinata anche a una consapevolezza, cioè di non essere liberi, se no, cioè, lo schiavo che non sa di essere schiavo può tranquillamente pensare di essere libero. Però anche l'individuo stesso che vuole crescere e accrescere se stesso, se non in relazione con altre persone libere parimenti a lui o comunque sue pari, sue superiori, come può migliorare, sviluppare, crescere in libertà, in consapevolezza, in coscienza, se non raffrontandosi con altre persone libere? Quindi forse un'idea come quella socialista che si è affermata alla metà dell'Ottocento, che dice libertà materiale come base per l'affermazione delle libertà ulteriori, di per sé è sicuramente interessante. Poi magari anche nella storia, che ne so, penso a un filosofo italiano come Gramsci, anche è stata messa un po' in discussione su un aspetto economicistico proprio. Un po' limitante anche quello, a un certo punto. Sì, alla fine sono vasi comunicanti, struttura e sovrastruttura, no? Dimensione, diciamo, etico-morale, dimensione strutturale-materiale, che si influenzano a vicenda. Forse in dei momenti, in dei luoghi, c'è la preminenza dell'una rispetto all'altra, ma assolutamente, nel senso, senza vincoli, non si può dire che è così. In effetti si influenzano a vicenda, questa è un po' sì, boh, la mia interpretazione di quello che ho letto. L'interpretazione di Franco di Gramsci. Sì, perché no? Perché no? Condividiamo. Fate un po' per questo la cultura del passato, no? Anche per smanecciarla, muoverla, interpretarla, sbagliando anche sbagliando. Magari. Ma sì, ma sento libero di fraintendere. Il tempo delle pere è un luogo libero per tutto. E invece mi viene questa domanda, sempre perché ci piacciono più le domande delle risposte. Libertà come verità? Wow. Salire la base, sì, che ci pensiamo. Problemi tecnici. Doveva andare una po' un pezzo che non sta andando. Che cosa è successo? È il cavo, ecco, era il cavo. Yo decido a dónde voy. Impedimento aquí no hay. Simple, so try to learn the night. M'appelez pas si je rentre tard. Premièrement, yeah. First of all, first of all. Yo sé bien ya que tú sabes. Te lo leo en la cara, dulcemón, yeah. Segundo, cómo duele cuando me miras. Sin saber tú me tiras. Tercero, les regards sont trop insistants pour se noyer dedans. Cuarto, on finit pas par patience, la rage devient notre sang. Antes de hablar me quítate la máscara. Arrêtez un peu avec toute cette mascara. Antes de hablar me quítate la máscara. Arrêtez un peu avec toute cette mascara. Yo decido a dónde voy. Impedimento aquí no hay. Simple, so try to learn the night. M'appelez pas si je rentre tard. Yo soy la mulata, no me interesa nada de tu plata. Vivo lo loco, me le doy gracias. Porque yo me muy lejos de tu juicio. Vivo lo loco. Fini à martyr pour ne plus jamais devoir fuir. Quand t'aimes on est solo. Si c'est ami, ça m'appelle famille. Mais quand t'aimes je suis solo. Quítate la máscara. Arrêtez un peu avec toute cette mascara. Antes de hablar me quítate la máscara. Arrêtez un peu avec toute cette mascara. Yo decido a dónde voy. Impedimento aquí no hay. Simple, so try to learn the night. Ne m'appelez pas si je rentre tard. J'étais compte à rendre à personne. Je pense que la vie me donne. Y'a une brielle sur l'interphone. J'aime mon abandon. Aquí va la luz. Yo vivo lo loco. Questa canzone che un po' stacca con il mood della base, che adesso abbassiamo e anzi cambiamo perché sì, così ci piace di più. E, era una canzone di Yendre e Lucent Yakuza, una canzone recente, un po' trap eccetera, che si chiama Masquerade, che mi piaceva perché, boh, poi non è stare qua a parlare troppo del testo, che ce ne frega relativamente, però mi ha fatto pensare questa cosa, mi ha fatto partire per un'ennesima tangente, e che all'interno della canzone ci sono dei passaggi in cui, vabbè, la canzone parla un po' di un rapporto conflittuale da due persone. A un certo punto c'è questa sottolineare questa cosa di dire, insomma, prima di parlarmi abbassa la tua maschera, cioè non c'è possibilità di dialogo se non si abbassano le maschere, no? E quindi il domandone buttato prima di mandare la canzone, la libertà come verità, in che senso? Perché per me, sempre di nuovo facendo collegamenti e ritornando all'inizio della puntata, perché volevo parlare di libertà, perché mi è venuto in mente parlando di questa cosa ascoltando la canzone di Gabber. Io, quando tutte le volte che nella mia vita ho ascoltato la canzone di Gabber, quando lui diceva libertà e partecipazione, il mio cervello dentro di me rispondeva no, libertà e autodeterminazione. E quindi, cioè, quella era un po' la mia risposta, cioè se io Gengè dovessi dare la risposta, cos'è la libertà per me personalmente, almeno come me lo vivo nella mia vita, libertà e autodeterminazione. E per me autodeterminazione significa questo, cioè libertà dal principio di non contraddizione, per cui essendo io una persona relativista pura, proprio al 100% ai limiti del funzionale, per me libertà significa proprio questo, cioè abitare tutti i mondi possibili tutti insieme, ricercare la propria verità, consapevoli che è relativa, e proprio quello per me è il processo di liberazione, e la libertà, cioè proprio un atto un atto di verità che è una verità ricercata, personale. Quindi fanculo tutte le maschere, quella è la libertà. E forse nemmeno una, cioè magari sono molte le libertà che uno si dà e le verità attorno alla libertà, rispetto ai vari ambiti, agli aggettivi che dicevamo prima, forse non c'è una libertà e un'idea vera di libertà per ciascuno. Io penso profondamente che non ci sia, magari... No, magari ma anche per ciascuno di noi, oltre che in assoluto, voglio dire, magari... Sì, sì, appunto, anche dentro di noi possono convivere tante libertà diverse e contrapposte, no? Quello che stai dicendo un po'. No. Sì, sì, come diceva il poeta, che com'era? Che nessun problema con la contraddizione, contengo moltitudini. Esatto, forse. Esatto, sì, sì, sì. Non ricordo che era, però è esattamente quello, sì. Per me è esattamente quello, cioè contengo moltitudini ed è questa la grande libertà, cioè è un po' proprio andare a fanculo Kant, cioè non, i suoi principi, la sua determinazione, la sua libertà come le leggi, no, nulla, cioè nel senso tutto e niente contemporaneamente, cioè può essere vero e può essere falso, e questa secondo me è proprio la vera libertà, cioè la libertà di non dover per forza rincorrere un ordine, una predisposizione, una coerenza, perché può essere tutto e il contrario di tutto, e questa cosa si ricerca individualmente e collettivamente, anche quello, ci possono essere delle verità collettive che poi ti sposti di qualche metro o di qualche centinaio di chilometro quadrato e non valgono più. È perché le stesse libertà collettive sono in discussione fra varie libertà collettive che tutt'oggi convivono nel mondo. Anche prima, quando dicevi per esempio di come quello che stiamo dicendo magari prende un punto di vista occidentale, atlantico, europeo, nordamericano, sicuramente esclude buona parte del mondo. La libertà individuale, per come la concepiamo noi, è senz'altro diversa dal... diciamo dalla concezione, che ne so, cinese, giapponese, coreana di... Certo, perché la nostra concezione di individuo, che è molto diversa, e quindi in funzione delle concezioni di libertà individuale pure di conseguenza è molto diversa, cioè l'individuo è l'inizio e la fine di tutti, la società è solo una somma di individui, quindi la libertà collettiva è la somma algebrica delle libertà individuali, oppure le collettività sono qualcosa di altro e di diverso rispetto agli individui, qualcosa di più rispetto agli individui, quindi la libertà collettiva non è solo e semplicemente la somma delle singole realtà individuali. Quindi posso ragionare delle libertà individuali, ma poi questo non mi restituirà il senso delle libertà collettive. Allora, mi hai distratto perché stavo parlando con te, quindi ho trovato un sito a caso, è stampata su una tazza e una felpa. Che cosa? Quindi non so se è giusta. Cosa è stampato su una felpa? La frase di Whitman, confermo. Ah, Walt, okay. Whitman, quella che diceva. Walt Whitman, che ci dice? Secondo la tazza. Fonte ufficiale. Mi contraddico? Ebbene sì, sono vasto, contengo moltitudine. E questa è la frase. Che bello, ragazzi, quanto adoro mandare a fanculo la coerenza. Sulle tazze. Anche quello. Comunque io lo dico ufficialmente su Radio Wombat, odio la coerenza come valore. E la amo anche. Posso riaccendere il microfono per dire che hai detto che è l'ora di sfrascià, anche se... Allora, sì, sì, purtroppo questa cosa è successa fuori dai microfoni sbagliando, forse hai fatto bene. È che ho pensato, dopo tutte ora è ora di sfrascià. Quindi famo che mettiamo una canzoncina e... Famo che la canzoncina la presentiamo dopo, come abbiamo fatto, sì. Così lasciamo un attimo un momento di suspense. Poi ci rivediamo dopo la canzoncina, sempre su Radio Wombat. 1, 3, 5, 9. Sempre pronto. tutto ciò che è intorno, dall'uomo che non è padrone del suo giorno, da tutti quelli che inquinano il mio campo. Io mi libererò perché ora sono stanco. Liberi tutti, liberi tutti, liberi, liberi, liberi, liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, liberi, liberi, liberi tutti. Comunque liberi tutti. Liberi tutti, liberi sempre. Tutti. Sempre. Tutto sempre. E allora, dopo questa parentesi che musicale, che secondo me non c'è, no, allora, manco bisogno di commentare. Sì, vuoi io, commentare? Vai. Vai veloce, veloce. Le canzoni, i film. Ah, il no, grande no, no, clip io dicevo... in fuga da Alcatraz, ci tenevo. No, io dicevo non c'è bisogno di commentare Liberi Tutti dei Subsonica. No. Quella si commenta da sola, sì. Questo dicevo, no? È che nella prima parte della canzone, la prima strofa, dice scapperò come il grande Clint in fuga da Alcatraz, certo, come certo. Steve McQueen. I riferimenti sono a due bellissimi film. A due bellissimi film, esatto. Questo io ci dà un gancio, un gancio fuga, perfetto. Sul questa rotta. Parentesi consigli per gli acquisti. Perché abbiamo acceso lo schermo? Perché io voglio vedere i volumi. Ah, ecco, sì. Sono buoni. Ogni tanto no, quindi... Chi ci ascolta non ce lo può dire, no, perché come abbiamo detto questa puntata. Meglio che non ce lo dice. Inferita. Viviamo nell'ignoranza. Un momento consigli per gli acquisti. No, Franco ci teneva e quindi io ho detto vai. Sì, ci tenevo perché sono due film che mi piacciono tanto, sono due film degli anni 70. Spara. Fra i film della fuga sono fra i migliori. Clint Eastwood e Steve McQueen. In fuga da Alcatraz è quello con Steve McQueen del 78-79, non me lo ricordo, e del 72-73 invece è Papillon con Steve McQueen e Dustin Hoffman. Tra l'altro è tratto questo qua dal romanzo di Henri Charrière, non mi ricordo più, che è lo scrittore della Guyana francese, che aveva una farfalla tatuata sul petto, mi pare, e per questo era chiamato Papillon. Steve McQueen lo interpreta, è la fuga da questo carcere, da quest'isola dove lui è stato incarcerato per un omicidio che non aveva mai commesso. È un bellissimo film di fuga. Fra l'altro ho visto che di recente è uscita una riedizione tipo asiatica, però molto criticata. Ma molto guardiamo criticata. L'originale, anni 70, Steve McQueen. E l'altro con Clint Eastwood, Don Siegel. Godiamoci Clint Eastwood, è il tuo consiglio per gli acquisti. Sì, e anche Steve McQueen, tutti e due. Veramente tutti e grandi. Due. La grande fuga poi è il prossimo, il buco, quelli per le prossime puntate, gli altri film. Ah, quindi solo uno ce ne consigli? Due ne abbiamo detti, Fuga da Alcatraz e Papillon. Ah, Papillon fuga con da Steve Alcatraz. McQueen, certo, Dustin certo, Hoffman, certo. Fuga da Alcatraz con Steve Io McQueen. Io non ascolto neanche nella mia trasmissione. 79, grandi film sulla fuga. Mi distraggo. Tra l'altro non le mettiamo, però avevamo guardato un sacco di canzoni anche sulla libertà dei carcerati. Sì, in realtà stavo pensando, perché stavo guardando le canzoni da mettere dopo, e poi hai fatto il consiglio di acquisti, ho pensato, ma dai, ma forse prima di chiudere un po' tutti i discorsi, eccetera, mettiamo anche un altro paio di canzoni e poi facciamo un po' un attimo di discussioni finali. E c'era questa canzone che è presa dalla colonna sonora della serie televisiva Mare Fuori, che è una serie ambientata nel carcere minorile di Nisida a Napoli, e la canzone è in dialetto, che non capisce il dialetto napoletano, mi dispiace. No, la canzone comunque parla della storia, insomma, dalla prospettiva di una persona che sta dentro il carcere e che guarda il mare dalle sbarre e e si racconta tra virgolette di non, la traduzione della, del ritornello dice non ti preoccupare, ma io ci sto al mare fuori, cioè come a dire finché c'è il mare che lo vedo fra le sbarre mi ricorda la mia libertà, però poi racconta anche un po' i motivi, le storie dietro al perché, insomma. Vabbè, poi lì è andato a carcere per il minore di visita, quindi c'è proprio un legame specifico alle storie della città di Napoli, eccetera. Però insomma era una bella canzone che se vi piace, magari vi può piacere anche la serie. E mi danno 10% su ogni episodio, quindi no, ovviamente no. E questa è Omar Fuori. La piccola da sigaretta, alla ci stava maga che ogni onda retta, Mustafa di Gamoce, a Catamba pura reggio e casetta, sono cresciuto in mezza via, ostaccio che la gomma spenta, guaglione lo sistema, muovo sistema, tanta cosa in mezza via, è meglio a te ne fierro, a venere rosa, vado ma sta carcerata. Sono mega schieve cioè mana quella che chi lo mi frat e mi fa male coro, sei pure tu, pure tu. Non ci vaga a scuola, no ma non ci vaga più, ma chiappa una caiola con un guile fu. Mare mo sta fuori, non lo posso fare più. Non ti preoccupavo io, c'è sto mare fuori, c'è sto mare fuori, c'è sto mare fuori. La rete sbarra sotto cielo, c'è sto mare fuori, c'è sto mare fuori, c'è sto mare fuori. Quindi continuando su quest'onda di improvvisazione, questo mare fuori ha fatto venire in mente a Franco altri consigli per gli amici, no ha fatto venire in mente una cosa molto, molto bella in realtà che vuole condividere con noi adesso, qual è? No, molto breve soprattutto. Vabbè, anche no, abbiamo le persone ci stanno ascoltando sicuramente con incredibile interesse e partecipazione, io non ho dubbi. Allora cambia, scelgo una cosa molto lunga. Molto lunga. No, perché abbiamo parlato delle celle che danno sul mare, della canzone che abbiamo fatto sentire adesso, quella della canzone di Dalla che abbiamo fatto sentire prima. E siccome prima abbiamo accennato a Gramsci, un'altra persona effettivamente incarcerata che aveva una cella che dava sul mare era Gramsci, incarcerato dai fascisti, lo sappiamo, è morto nel 1936, dove, quando è uscito dal carcere, insomma, sputando sangue solo per morire. E il suo secondo figlio, che lui non ha mai conosciuto, si chiamava Giuliano, Julik, perché era nato a Mosca. e lui gli scrive tante lettere. Sono state poi raccolte nelle varie antologie di Gramsci, alcune molto delicate che parlano di animali sono raccolte nell'Albero del Riccio, che è questa raccolta di piccole fiabe, ricordi personali che parlano di lui quando allevava i ricci, i suoi rapporti con i primi cani che aveva. Parlano tanto di animali e sono fiabe. E in una lettera in particolare, all'interno di queste, che lui scrive al suo secondo figlio, appunto, che non ha mai conosciuto perché è nato dopo che Gramsci era già stato incarcerato, che si chiama Giuliano, dice questo: caro Giuliano, hai visto il mare per la prima volta, scrivimi qualche tua impressione. Hai bevuto molta acqua salata facendo i bagni? Hai imparato a nuotare? Hai preso dei pesciolini vivi e dei granchi? Io ho visto dei ragazzetti che prendevano dei pesciolini nel mare con un mattone bucato ad aria. Ne avevano riempito il secchiello. Ti abbraccio, Antonia. E questa piccola lettera è una lettera scritta ad Antonio Gramsci, al figlio. In realtà la scriveva sua moglie Giulia, che la traduceva per il figlio e che poi scriveva le parole del figlio, che il figlio dettava a lei. Però a proposito di celle che danno sul mare, di libertà che manca, mi sembrava che ci poteva stare. Che ci potesse stare. Io direi che ci stava benissimo. Assolutamente non a caso, anche se a caso, questa canzone ha il rumore del mare, delle onde, dei gabbiani in sottofondo. Giusto per tirarsi. ci avviciniamo alla conclusione. Penso che abbiamo detto tanto, non abbiamo detto nulla. Abbasso la musica, però non mi sentite. E dai, ci avviciniamo alla conclusione di questa prima puntata, di questa seconda stagione, molto bella, mi è piaciuta molto. E ci rivedremo per le prossime. E sendo che qui è il tempo delle pere, con la serietà, insomma, dopo un po' è stantia, e vogliamo chiudere con un quesito molto serio. La domanda è questa, e la domanda la facciamo anche a voi persone che state ascoltando. E di nuovo, aprite il pad diretta wombat.vado.li e scrivete. Hai visto dove è il cartello? Bravo. Letto perché non mi ricordavo. La domanda è: quando non ti senti libero? Io ad esempio non mi sento libero, e stiamo parlando di cose molto serie qua. Quando voglio fumare non ho il cartello, non trovo i filtri dentro il coso del tabacco. Perché tu dici, perché il tabacco? Beh, se non manca il tabacco, manca proprio l'elemento principale. Cioè, quando non mancano le cartine, effetti, e i filtri, io proprio mi sento, cioè la mia libertà è finita. Cioè è un'illusione, quel tabacco è un'illusione di libertà. C'erano anni in cui se le fumavano nei quaderni, le sigarette. Dici tu, guarda, è una questione d'autoimposta. Guarda come cambia l'idea di libertà dagli anni 70 a oggi. Che pigrizia. Allora, io non mi sento libero invece quando entro in macchina, sto guidando, non sono nemmeno arrivato alla fine del vialetto e sta suonando già la cintura, fa e poi terribile costruzione. Non mi sento libero di aspettare 20 secondi in più, di andare a 15 km orari prima di passare. Io non mi sento libero quando esistono i semafori. I semafori infastidiscono molto. Io invece non mi sento libero quasi ogni volta che guardo l'orologio, che mi piglia quasi sempre male. L'orario mi determina molto. E poi a proposito di fumo, devo dirtela tutta, cara Cece, io non mi sento libero quando fumo, nonostante sia un fumatore. Davvero? Mannaggia, mi sento costretto e viziato. Le dipendenze forse limitano un po' la nostra libertà? Ma anche la raccolta differenziata, perché non mi sento libero quando mi raccolgono la plastica soltanto il mercoledì, perché io produco molta plastica. Non è vero, non sono io, sono i prodotti che compro. Tu non sei, tu, no, esatto, non partecipare alla colpevolizzazione. Però un giorno a settimana secondo me è poco comunque. Giustissimo, assolutamente giusto. Io non mi sento libero quando voglio tornare a casa e ho dimenticato le chiavi a casa. Questo non mi sento libero dal mio cervello, che mi fa questi attacchi nemmeno terroristici. Nemmeno ti sentirei libera di dormire per tutta la notte, sicuramente in quelle situazioni, perché o svegli i tuoi coinquilini o stai a zonzo fino all'alba. È un problema, effettivamente, che limita la mia libertà. E io non mi sento libero di dire fino in fondo quello che penso quando qualcuno ascolta. Però noi non stiamo parlando alla radio, quindi oggi sono stato liberissimo di dire tutto quello che pensavo. La radio è uno dei pochi punti safe di libertà di parola. No, non è vero, sto scherzando, mi sento molto libero su Radio Wombat. Sentiamo tutte libere su Radio Wombat? Io spero di sì. Non mi sento libero quando ascolto Contro Radio. L'abbiamo detto, basta, è andata così. E quindi dopo questa raffica di confessioni, e io direi comunque che diciamoci possiamo... anche questa cosa prima dell'ultima cosa, che il non è molto più facile del quando ti senti libero. L'abbiamo detto prima e secondo me questa cosa un po' lo confermo, perché infatti la domanda prima, dietro le quinte, la domanda prima era: quando ti senti libero? E questa domanda è stata accolta da un vuoto e un'angoscia esistenziale che già è difficile. Effettivamente è più facile vedere le catene che per pensare, sognare, no? Sì, abbiamo un po' sperimentato che la libertà negativa, giusto, che era la libertà da, ci risulta più semplice definirla della libertà di, sì, della libertà positiva, forse perché è più oggettiva, è più... Chi può dirlo? Non noi, sicuramente non adesso, sicuramente non in chiusura della puntata. Speriamo. Io sono curiosa di leggere i commenti, se ci saranno. Rinvito di nuovo a condividere le vostre riflessioni. E niente, vi ringrazio. Ringraziamo le persone che sono all'ascolto. Ringrazio Franco che è stato con me, mi ha sostenuto, mi ha fatto continuare di andare alla deriva, non da solo questa volta. E bentornati al tempo delle pere. Grazie a te, Gigi. Se mi rinviterai, io mi sentirò libero di accettare di nuovo il tuo invito. Assolutamente. E buonanotte, buonasera, buon pomeriggio, buona mattina, a seconda di quanto state ascoltante.